della sua identità, come viene presentata nel nuovo patto, nel nuovo testamento, l'alleanza eterna. In Matteo è il figlio del Dio vivente, in Marco è il facitore di miracoli, in Luca è il figlio dell'uomo, in Giovanni è la porta che ognuno deve attraversare, nel libro degli Atti è la luce splendente che appare a Saulo sulla strada di Damasco, in Romani è la nostra giustificazione, in Prima Corinzi la nostra resurrezione, in Seconda Corinzi colui che porta i nostri peccati, in Galati il nostro liberatore dalla legge, in Efesini ha la salvezza per grazia, in Filippesi è colui che provvede a tutti i bisogni, in Colossesi è la pienezza del cuore del Padre, in Prima e Seconda Tessalonicesi è il Re che sta per tornare, in Prima e Seconda Timoteo è il mediatore fra l'uomo e Dio, in Tito è la grazia salvifica, in Filemone è un amico più stretto e intimo di un fratello, in Ebrei è il sangue del patto eterno, in Giacomo è il Signore che guarisce gli ammalati, in Prima e Seconda Pietro è il supremo pastore, in Prima, Seconda e Terza Giovanni è Gesù che dimostra la dolcezza del suo amore, in Giuda è il Signore che viene con le sue sante miriadi, e nell'Apocalisse alza i tuoi occhi, o Chiesa, perché la gioia della tua redenzione è nei cieli, egli è il Re dei Re, il Signore.